Van Loon. Dialogando di storia, qualcosa ne verrà fuori. Ciao a tutte e tutti da Frey, ben ritrovate e ben ritrovati su Van Loon, la vostra mezz'ora di storia del sabato pomeriggio che ritrovate poi naturalmente lunedì mattina in podcast al nostro sito www.radiovanloon.info. Questa settimana sono da solo in conduzione e, come capita di frequente quando sono da solo, vuol dire che c'è area di libri. C'è area di libri e si parla di libri. Libri, naturalmente, letteratura, gran bella letteratura, come vedremo anche in questa puntata, ma letteratura che ci serve per entrare e parlare di storia. I libri di cui vi parlerò quest'oggi, come dicevo, sono tre e entrano in un periodo particolare della storia del Novecento, che è quello della Repubblica di Weimar. Cosa intendiamo quando parliamo di Repubblica di Weimar? Intendiamo quel periodo che va dal crollo del Secondo Impero, a seguito della Prima Guerra Mondiale, fino all'elezione come cancelliere di Adolf Hitler nel 1933, che di lì a poco avrebbe dato il via al Terzo Reich. Che cosa sono questi anni 20-30 tedeschi? È un po' difficile da dirlo, non ci sono delle posizioni unanimi, perché si tratta di un periodo molto molto sfaccettato, in cui una fragile democrazia, la prima vera democrazia tedesca, dice qualcuno, che si sviluppa in Germania, si sviluppa sulle ceneri di una guerra persa, con un esercito di reduci che tornano al fronte e trovano un paese disastrato per la crisi economica che colpisce il paese sconfitto, disastrato per i debiti di guerra che la Germania, a seguito degli accordi di Versailles, deve rifondere a Inghilterra e Francia soprattutto. Un paese disastrato perché questa democrazia che si sviluppa, democrazia nata dalla sconfitta, e si scopre improvvisamente molto fragile. Perché? Perché viene attaccata. Il clima degli anni 20 è un clima politico in tutta Europa molto pesante, non peraltro perché ci sono uomini che hanno conosciuto la morte, che hanno frequentato la morte, che tornano a una vita civile, con diverse difficoltà naturalmente. Questo tema ha colpito, sta colpendo sempre di più, negli ultimi anni ci sono tante pubblicazioni che sono ambientate negli anni 20 tedeschi. Una su tutte naturalmente è la famosa serie televisiva Babylon Berlin, è una serie televisiva di ambientazione noir che affonda le radici in una serie di libri usciti in Germania dal titolo Babylon Berlin. In Italia uscivano per la prima volta il primo volume di questa serie, che era Il pesce bagnato, usciva nel 2010 con Mondadori, riscuotendo uno scarso successo, è stato ristampato adesso da Feltrinelli con il titolo Babylon Berlin, per fare riferimento alla serie. E questo naturalmente è il più importante, ma tanti sono i libri e le produzioni che trattano l'argomento degli anni 20 tedeschi. Come mai questo interesse? È un po' particolare, è un po' difficile capirlo. Molto probabilmente è per quanto l'atmosfera attuale di populismi, diciamo come vanno dette, dei movimenti fascisti che si avvicinano al potere, fanno pensare con timore agli anni 20, oppure perché c'è la consapevolezza di essere anche adesso in un'atmosfera da fine civiltà, diciamo, mentre di cui pochi se ne rendono conto, in una frizzantezza generalizzata. Beh, questi elementi vengono ritrovati, vengono appassionano il pubblico e vengono messi negli anni 20 tedeschi, negli anni della Repubblica di Weimar. Di questo naturalmente ne è consapevole anche Volker Kuscher, l'autore di Babylon Berlin, una serie sia di romanzi e televisiva di cui non ci occuperemo in questa puntata. Uno dei nostri ascoltatori più fedeli, Roberto di Ancona, ci ha dato qualche indicazione su questo libro e ha detto che è bello tosto, forse è reso meglio nella serie televisiva che nel romanzo. Fatto sta che Volker Kutschers, in un'intervista che ha rilasciato alla Lettura del 26 novembre del 2017, dava qualche indizio per capire questo successo degli anni 20 tedeschi. Dice: Oggi, con l'ascesa del partito di estrema destra AfD, il paragone con la Repubblica di Weimar è diventato molto frequente, ma nel 2008, quando lei, signor Kuscher, scrisse il primo romanzo, non era così. Perché aveva scelto proprio quel periodo? Sono molte le ragioni per cui la Berlino degli anni 20 e 30 mi affascina. Intanto c'è una cultura di quel momento, non solo letteratura, teatro, architettura, pittura, cinema, ma anche la musica, il jazz soprattutto, la moda e le automobili. Era un periodo di grande fermento creativo e Berlino ne era una delle capitali. Gli anni 20 di Berlino sono diventati un mito. Ma forse il motivo più importante per questo interesse, continua Kushner, è la tragica svolta della storia tedesca che avvenne proprio in quegli anni. Si sono date molte spiegazioni del perché il primo esperimento di democrazia in Germania si chiuse con la nascita del Terzo Reich, ma nessuna di queste spiegazioni mi soddisfa. Per questo, scrivendo i miei romanzi, volevo trovare una risposta. Ho ripercorso quel tragico cambiamento della vita sociale e politica secondo i diversi punti di vista dei personaggi, che a differenza dei lettori non sanno nulla del futuro che li aspetta. Ecco, io parto da questo punto per cercare di capire quelle che sono le caratteristiche di questa letteratura che si occupa degli anni 20 tedeschi e raccontare un qualcosa che non si sa. Vedremo come viene raccontato questo qualcosa che noi lettori sappiamo e i personaggi non dovrebbero sapere in linea di massima, e vediamo come gli autori e le autrici raccontano questo passaggio verso il baratro che evidentemente riscuote un grande interesse da parte dei lettori e delle lettrici. Atmosfera tedesca, ci ascoltiamo un pezzo di un gruppo punk tedesco degli anni 80, gli Heha 80, purtroppo non so pronunciarli in maniera giusta, non pronuncerò i titoli delle canzoni perché sono troppo difficili, però entriamo in atmosfera e poi entriamo con i nostri tre libri dedicati alla Repubblica di Weimar. Siete su Vallun, siete la vostra mezz'ora di storia del sabato pomeriggio, siete in compagnia con Frey che vi sta guidando in un percorso sui libri e sulla letteratura che racconta la Repubblica di Weimar. Tre libri usciti nel 2018, magari con pubblicazione in lingua originale precedente, ma dall'anno scorso abbiamo molto materiale per parlare di questi elementi. Partiamo subito con il primo libro. Il primo libro che vi presento è di Alberto Done, La meccanica del delitto, premio tedeschi del 2018, è un giallo, uscito nella collana Giallo Mondadori, quelli libri da Ericola, come supplemento al numero 3169, penso che si possa trovare da qualche parte, comunque è uscito per la prima volta in edicola. Giallo è interessantissimo perché ci permette di entrare in uno degli elementi ricorrenti di questa letteratura dedicata a Weimar e agli anni 20 tedeschi. Libro particolare, è un giallo, il protagonista è l'ispettore Kurt Meingeist, un poliziotto che è tornato dal fronte storpio e sfigurato e viene confinato in archivio, allontanato dalla strada, per quanto lui fosse prima della guerra un uomo molto capace, non viene ritenuto più in grado di svolgere il suo servizio. Al fianco suo rimane il sergente Benko, che è l'unico che riesce a stargli vicino, perché con lui ha condiviso la stessa esperienza del fronte. Questo libro ci presenta una tematica molto importante che negli altri due che vi presenterò non sempre tornerà, che è quella del ritorno dei reduci. La Germania è un paese che ha un'enormità di reduci, ha un'enormità di feriti, un'enormità di persone che faticano a reinserirsi nella vita civile. E Odone, che questo poi è il suo primo libro, quindi dimostra di essere veramente un grande scrittore, utilizza questo elemento per collocarci in un'atmosfera da film espressionista, dal cinema espressionista degli anni 20 tedeschi, raccontandoci di questo poliziotto storpio, è il caso di dirlo, che entra nel marcio della società tedesca, scopre e viene immerso nel mondo del cinema, ma anche nel mondo della pornografia, potremmo dire, e in una Monaco, che questa è la città in cui si sviluppa il giallo, che fatica ad uscire dalla guerra perché nella guerra sta ripiombando. Non a caso protagonisti, fra virgolette, sono i nazionalisti, quelli che sarebbero poi diventati i nazionalsocialisti, che cercano di fomentare i reduci. E Meingeist ne rimane immune da questo coinvolgimento, a differenza di altri poliziotti, come si vede nel romanzo, ma si rende conto che quell'uomo sta cercando di parlare esattamente alla gente come lui, a chi è tornato storpio dal fronte, a chi fa fatica ad inserirsi in un nuovo contesto, a chi, come dice, questa è una delle parole che secondo me è bellissime, si rende conto che faceva meno fatica a partire all'assalto piuttosto che a confessare il proprio amore a una ragazza. Ecco, questo è il primo elemento forte. Qua c'è meno frizzantezza, non c'è la frizzantezza prima del baratro, anche perché siamo negli anni 20, ma c'è la consapevolezza che qualcosa si sta pericolosamente muovendo. Quindi, primo libro consigliato, primo libro che ci racconta la Germania degli anni 20, primo libro che ci permette di entrare in questo meccanismo. Adesso un altro pezzo degli E80 e torniamo fra poco. Schöne Nacht und plötzlich hat keiner mitgemacht. nuovo qua, stiamo parlando di Gialli e Repubblica di Weimar, siete sui 103.1 FM di Radio Città Fujiko, siete con Valluno, la vostra mezz'ora di storia del sabato pomeriggio, e riprendiamo il nostro percorso. Vi abbiamo segnalato prima della canzone il libro La meccanica del delitto di Alberto Done, adesso vi proponiamo un libro di un'autrice tedesca, in questo caso Carmen Korn, con Le figlie della nuova era, edito da Fazio Editore nel 2018, primo capitolo di una saga che conoscerà fra poco un secondo volume, ritratto di quattro donne ad Amburgo che nel marzo del 1919 vanno incontro al lettore e raccontano le loro vite. Abbiamo quattro figure diverse. Altra caratteristica di questi libri, si tratta spesso, come vedremo poi nel terzo capitolo di questo percorso, di letture corali, cioè vengono rappresentate classi sociali differenti, vengono messi tanti elementi insieme per rendere il quadro e allo stesso tempo la complessità della Germania di Weimar, in cui non tutti gli aspetti furono negativi, fra virgolette, è questo che ci vogliono dire gli autori. C'è uno spazio, ecco, per quella frizzantezza verso il baratro di cui parlavo prima, emerge molto, perché ha rappresentato anche una stagione, in particolare per le donne, di grande libertà. Quattro donne, una... abbiamo Annie, una ragazza borghese forse un po' conformista, Lina, una donna che ha visto morire i propri genitori di fame per far sopravvivere lei e il fratello, Kate, una militante comunista, e Ida, una rampolla di una ricca famiglia che andrà sposa con un barbiere per un matrimonio di comodo, con un banchiere per un matrimonio di comodo. Queste donne si confrontano con questa società, e qua abbiamo un po' un piccolo problema in questo libro, nel senso che molto spesso noi ci rendiamo fin troppo conto di come andrà a finire, perché naturalmente lo sappiamo, ma anche perché la voce narrante spesso entra nel romanzo commentando quello che sarebbe successo di lì a poco. La cosa interessante è che questo libro ci conduce dal 1919 fino al 1948, dandoci veramente un quadro di Amburgo, di come cambia e di cosa succede in questa città in questi importantissimi anni 20, 30 e poi anche 40. Interessante la scelta dell'autrice di concentrarsi sulle donne. Attenzione, abbiamo detto, è un romanzo in cui viene alla luce la ricchezza della libertà di cui godono le donne, però c'è un interesse molto particolare. Non a caso uno dei grossi temi di fondo è quello della maternità. Due delle protagoniste sono ostetriche, altre due ragionano, e in fondo tutte e quattro ragionano sulla possibilità o non possibilità, sull'opportunità o non opportunità di avere dei figli in quel momento storico, sulla necessità di pensare a questi figli poi nel momento in cui la guerra si inizia a profilare in maniera molto forte, e questo fa da elemento guida nell'arco di tutta la narrazione. Finisce il libro che rimaniamo un po' in sospeso. Questo è un libro che ha tutte le caratteristiche di quella narrazione lunga che si presta alla serializzazione televisiva. È molto probabile che venga fatto, noi rimaniamo col fiato sospeso perché attendiamo il volume successivo per capire come vanno a finire alcuni dei percorsi. Fatto sta che noi li seguiamo nell'arco di tutto questo lungo romanzo e abbiamo modo di scoprire la complessità, per l'appunto, di questa Repubblica, in cui emerge in maniera un po' sparuta, ma comunque emerge molto presente anche qui un'altra tematica di questa rappresentazione di Weimar, che è quella della violenza. La violenza innanzitutto politica. Tenete in considerazione che Kate è una militante comunista, come tale paga lo scotto di quella militanza, e tenete in considerazione che c'è una violenza nazista, ci sarà poi una violenza della guerra. Questi, la maternità di fronte alla tematica della violenza, sono i due grandi canali che accompagnano questa narrazione, in cui si parla molto anche di libertà, come dicevo, non solo per la libertà di emancipazione delle donne, ma si inizia a parlare di lesbismo, e compare anche un personaggio cinese, questa questione molto interessante, il personaggio di Tian, ma non vi svegliamo di più. Io mi aggancio alla tematica delle violenze, vi lancio l'ultimo pezzo prima di andare con l'ultimo romanzo e poi vi porto invece verso la zona più centrale della Germania. Lasciamo il mare di Amburgo e andiamo verso Berlino. Punk anni 80, post-punk tedesco con gli EA80 e siete con, in compagnia di Frey, questa è Vallun, la vostra mezz'ora di storia del sabato pomeriggio e stiamo facendo una carrellata su tre libri che raccontano la Repubblica di Weimar. Abbiamo iniziato con Alberto Odone, La meccanica del delitto, un giallo, è ambientata a Monaco nel 1920. Siamo passati a, con Carmen Korn, Figlie di una nuova era, un romanzo corale ambientato ad Amburgo dal 1919 al 1948 e come vi dicevo prima dello stacco musicale siamo andati a Berlino, il centro di questa storia, il centro perché Berlino ha rappresentato la vera scena del confronto politico tedesco degli anni 20-30 della Repubblica di Weimar. È qui che si sono giocate le sorti della fragile Repubblica tedesca. Infatti anche questo è un aspetto interessante. Questi tre libri che vi ho citato sono libri cittadini. Bisognerebbe recuperare quella vecchia serie televisiva Heimat, non so se ve la ricordate, in cui viene affrontata anche la provincia. Questi invece sono libri cittadini e questo è un grandioso fumetto cittadino, fra virgolette. Protagonista assoluta è veramente la città. Stiamo parlando di Jason Lute, Berlin, tre volumi usciti in Italia fra il 2003 e l'ultimo del 2018, quindi un lavoro gigantesco. Ne è uscito poi una bella e bellissima recensione la scorsa settimana su Internazionale, tratta dalla Süddeutsche Zeitung, scusate la pessima pronuncia, e tre volumi dedicati a Berlino. Il primo inizia nel 1928 e l'ultimo si chiude nel 1933. Un affresco di una città violenta, un affresco di una città complessa, è quello che fa Jason Lutz, e secondo me è uno dei racconti più efficaci che vengono fatti della Repubblica di Weimar. Bizzarro poi che sia fatto da un americano. Tre volumi, dicevo, da tre titoli diversi. Berlin, la città delle pietre, il primo. Berlin, la città di fumo. Berlin, la città della luce, l'ultimo. E veramente questa luce poi è un qualcosa che torna, che veramente è un elemento molto potente che viene messo al servizio della narrazione. Ora, Jason Lutz è questo fumettista americano che ha lavorato per 20 anni su questo libro e ha voluto ed è riuscito pienamente nel suo intento di renderci la complessità di una città. Vi spiego il meccanismo. Io ho comprato poche settimane fa l'ultimo volume, l'ho letto senza riprendere gli altri. Perché? Perché è veramente l'affresco di una città in un periodo storico, che è quello che colpisce, che lascia con col fiato corto. Poi dopo ho ripreso anche gli altri per rimettere in fila le sorti dei personaggi, visto che erano passati quasi 10 anni dal secondo volume. In questo quadro abbiamo, in questo fumetto, riusciamo per l'appunto a seguire lo sviluppo di una storia, che è la storia con la S maiuscola, quasi senza preoccuparci delle vicende dei personaggi, anche se ce ne sono tre che ci accompagnano nel volume, a fianco ad altri laterali. Abbiamo Martha Müller, che è la protagonista assoluta, diciamo, una studentessa d'arte che scappa da Colonia per andare a Berlino, per l'appunto a studiare, che intreccia una relazione molto particolare con un giornalista di simpatie probabilmente socialdemocratiche, Kurt Severing, e intreccia questa relazione sullo sfondo di Berlino. Altro personaggio molto presente è Silvia, che secondo me è il personaggio più interessante di tutta questa serie di tre volumi. È una ragazza che vive sulla sua pelle le fratture politiche della Germania, in quanto i genitori si sono separati perché la madre di simpatia comunista è scappata con le figlie dal marito di simpatie naziste, ed entrambi vivono in dei caseggiati gestiti dai rispettivi partiti, e la loro militanza politica è una militanza politica della fame e della disperazione. Questo personaggio che poi sviluppa a seguito dell'omicidio della madre nel 20 del 1 maggio del 1929, questo personaggio mostra una rabbia, una violenza molto forte, che si intrecciano con le scene di Berlino. Una Berlino che viene affrescata, è caso di dirlo, ma da una linea chiara molto semplice, che via via si semplifica, diventa più sottile, partendo da una grossezza di fondo della città delle pietre per arrivare alla città della luce, che è molto sottile, veramente lascia intuire il profilo dei palazzi, su cui si staglia questa violenza che irrompe in un clima, per l'appunto, che è particolare. Particolare, da un lato è frizzante per le classi sociali più alte, anche Martha Müller gode di questa liberazione dei costumi, ma è un clima anche molto pesante per chi invece è un proletario e quella vita dura la vive. Io con queste ultime considerazioni vi lascerei, vi ripeto i titoli che poi troverete sul nostro sito internet www.ladiovallun.info. Abbiamo parlato di Alberto Dohn, La meccanica del delitto, abbiamo parlato di Carmen Connor, Figlia di una nuova era, e abbiamo chiuso con Jason Lutz, Berlin. E per oggi è tutto, io vi auguro un buon proseguimento di giornata, vi suggerisco un appuntamento che sarà il 28 marzo alla libreria Modo Info Shop alle ore 21, la presentazione della raccolta Nel castello della prossima volta, poesie di Massimiliano Chiamenti, a cura anche del sottoscritto, per cui se volete ci vediamo giovedì alle 21 in via Mascarella. Per oggi è tutto, buon proseguimento di giornata da Frey, ciao!